Sì, infatti me l'aveva detto, è gigantesco, la marca era una marca strana perché è difficile a trovarlo in internet, cioè non sai la marca, è perché devi sapere anche scriverla la marca, non è facile. Sì, io l'avevo visto perché erano gli ultimi mesi prima di succedere questo guasto al telefono, capito? Perché si è staccato un filo a casa, poi c'era... un attimo mi sono salite le tattiche, sì, come si era attaccato un filo, capito, vicino a casa, e capito, del telefono, e quindi avevo internet allora all'epoca e l'avevo visto, sì, di un mostro di alimentatori, il primo. Non ho capito che quando ci sono alzate le tattiche poi ho perso il filo del dito, che cosa hai detto? Sì, che mi sono alzate le tattiche poco fa, sì, che siccome quando c'avevo internet, ti ho detto, l'avevo visto questo alimentatore in internet, prima di guastarsi il filo del cavo che collega la linea del telefono vicino a casa, capito, che ancora non l'hanno aggiustata e la dovrebbero aggiustare, credo, in questi giorni, perché non è quella degli altri, è solo quella di casa mia il problema, che ancora non c'è venuto nessuno a riparare il guasto, siamo già 3 mesi così, sì, e l'avevo visto questo alimentatore, la marca non c'è, che non mi viene in mente adesso, l'avevo vista, era una marca strana, Fricari, prima. Ho capito, boh, allora bisognerebbe vederlo, però te l'ho detto, bisognerebbe cercarlo su internet, e non so neanche se mi sembra che avevo sentito che l'aveva comprato da uno di questa zona. Ah, eri tu. Sì, stavo provando una cosa, sì, no, sto facendo liscio, capito, sì. Quella roba lì, capito, l'avevo vista, riprendi, cosa mi stavi dicendo? No, niente, che se non sbaglio avevo sentito che l'aveva preso da uno di qui. Ok, mi sono accordato, sì, non ho copiato il passaggio perché mi stavo accordando, sì, adesso io ho sceso a zero le tattiche, sì, cosa mi avevi detto che non ti ho copiato nell'ultimo passaggio? Se non sbaglio, l'aveva preso da uno di questa zona. Sì, ovviamente non l'aveva preso nuovo, l'aveva preso che era un po' messo male, capito? Era lui se l'aveva messo a posto lui, si aveva comprato i pezzi da Fusaro, aveva detto, sì, e le resistenze, mi pare, se l'aveva fatto lui, capito? Però sì, uno di questa zona gliel'ha dato, non mi ricordo chi è che gliel'ha dato, però l'ha preso da uno di qua, mi sembra, riprendi. Allora, e niente, però te ho detto, questi alimentatori sono sempre buoni, mi sembra che, se non sbaglio, è un alimentatore CEP di quelli potenti, che tipo, che se ti dicono che è un da 60 ampere, riesce a tirarlo fino al doppio e te ne dà anche 120. Sì, Rica, sì, infatti non era omologato, però è un bestione, capito, è veramente, veramente bello, c'ha la pentola, capito, c'ha un sacco di cose, sì, un mostro di alimentatore, l'avevo visto, infatti ha fatto un ottimo acquisto, poi è riuscito anche a ripararlo, quindi, capito, non l'ho più sentito, perché ho visto che non stava neanche più entrando sul 10, sono sul 10, ho detto, non ci modulo, mi faccio qualche DX qua sul 45, su qualche frequenza più alta, perché mi sono detto, io il baracchino ce l'ho per fare DX, capito, Rica, e non mi piace, almeno io non mi piace fare questo locale, capito, Rica, e lo faccio qualche volta così, ma mi piace molto fare DX, quindi non l'ho più sentito, riprendo. Capito, e niente, Cla, se vuoi entrare per caso più tardi, che adesso devo andare, vado a cenare, ci sentiamo più tardi. Sì, Cappa, Rica, sì, ne approfitto per salutarti, sì, ti auguro una buona carica, sì, un buon berrettino, un buon tutto, sì, magari al limite ci sentiamo più tardi, sì, mi telefoni, se puoi entrare, sì, mi dici una frequenza, sì, capito, ed entro molto volentieri, no, non ci sono problemi, sì, e niente, Rica, ne approfitto e ti saluto, ciao. Scusa, Gla, devo andare a mangiare, se ci sentiamo più tardi, se la faccio già ti chiamo. Ok, un saluto a tutti, io lascio acceso, resto in Core X. Sì, ci aggiorniamo dopo, se oppure alle prossimine, da corretti per me allora. Sì, ciao, ciao Riccardo, ciao. Sì, è stato un piacere, sì, e niente, corretti per me. Ciao a tutti, buona serata.